Non esiste una società da difendere né da distruggere. Difendere la società è sempre stato uno degli errori dei rivoluzionari. Fino ad oggi ci siamo battuti sul terreno di una finzione che ci è essenzialmente ostile. Lottare per una causa dietro la quale il governo avanza mascherato. Il governo ha rinunciato a questa finzione, ha rinunciato a integrare tutti gli umani in una totalità ordinata, abbandonando l'estenuante costruzione di una specie umana omogenea. Non c'è né natura né società, questa mostruosità è durata abbastanza, non c'è alcun cielo sociale sopra le nostre teste. Combattere una finzione significa materializzarla. Quello che esiste siamo noi. La nostra potenza è il brulicare di mondi che si espandono nelle viscere della bestia. Abitiamo il cadavere di un sistema che si decompone e ricompone senza soluzione. Ecco perché la nostra priorità è prenderci cura delle forme di vita che costituiamo. La nostra forza è fatta dall'intensità di quello che viviamo, dalla gioia che ne emana, dalle forme di espressione che inventiamo. Come hanno dimostrato gli zapatisti, anche se ogni mondo è situato, questo non lo priva affatto dell'accesso alla generalità, ma al contrario glielo procura. L'universale è il locale meno i muri. L'universalizzazione passa attraverso l'approfondimento in se stessi di quanto sperimentiamo in ciascun punto del mondo. Significa, dunque, connettersi con zone affini di diffidenza, travalicando le frontiere. Le lotte, come il notavo in Valsusa, riguardano il mondo intero. Qui non si porta avanti la difesa generica di un vago bene comune, ma ci si incontra per costruire in comune il nostro bene. Non esistono le lotte locali, non esiste un altro mondo, esiste semplicemente un'altra maniera di vivere.